Pronto Marco? Ciao Matteo, ciao. Ciao, grazie per aver interrotto il lavoro, che so che stavi lavorando. Che lavoro fai? Sono un tecnico informatico. Quindi stai al computer più o meno? Beh sì, davanti al... sì, adesso sono lo sgabuzzino. Ok, quindi facciamo in fretta. Marco, senti, raccontami che tipo di museo è e che cosa facevi tu come guida in questo museo? Allora, io ero una guida improvvisata di questo museo che si chiama Etnomuseo, che è un museo etnografico del mio paese, dove praticamente... Qual è il tuo paese, Marco, scusami? Rocca Gorga, in provincia di Latina. Rocca Gorga, ok. Sì, il curatore ha pensato bene di mettere il paese in un museo, praticamente. Un museo un po' sui generis, non ci sono teche, non ci sono reperti, ci sono... diciamo le scene di vita del paese, tra cui non era possibile non mettere i soprannomi, perché tutti, o più o meno tutti, hanno un soprannome da me. Te ne ricordi qualcuno? Ma sono soprannomi di famiglie, come nel mio caso, oppure soprannomi personali? Guarda, alla fine designano, io dico sempre, una stirpe, perché praticamente quando ti appioppano un soprannome non te lo togli più. Spesso ci sono bambini con soprannomi, ma non sanno nemmeno la loro origine, perché magari era il bisnonno che ha preso questo soprannome in un modo magari strano. Fammi un esempio di qualcuno di questi soprannomi. Guarda, tipo ce n'è uno, si chiama lo Scartaccio, perché questo era bravissimo, in salita con la bicicletta e scartava tutti, praticamente. Cioè che li staccava? Li staccava tutti, poi vabbè, cioè il Becchino. Vabbè, il Becchino è facile. Me ne ha scritto uno che si chiama Pizzicalluva. Pizzicalluva, perché praticamente quando si fa la vendemmia, invece di cogliere l'uva e di metterla nel recipiente... piano. Senti Marco, di tutto quello che mi hai scritto, e poi ti saluto, la parte finale ho trovato quella più interessante. Tu mi hai scritto: il soprannome è uguale a controllo sociale. Sì, controllo sociale. Tu poi qualcuno nella vita magari diventi importante, ma poi quando torni al paese, che so, sempre Cettola sei, se c'è quel soprannome, quello ti rimane, quindi è un marchio a fuoco. Marco, ti faccio tornare al lavoro.